che io ero morirà. Amica mia, questa casa non è casa mia. Col primo vento caldo me ne andrò. Siamo.